Eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco. Come potete sentire, siamo malaticci e quindi inauguriamo questo 2017 con un episodio all'insegna dell'influenza. Forse si parlerà di pandemic, forse no, questo ancora non lo sappiamo. Spero di no. Addirittura ho la sciarpa addosso, ho la sciarpa e il giubbotto mentre registriamo. Spero di non dovermi soffiare il naso troppo spesso. Ok. Quindi buon anno nuovo a tutti gli ascoltatori, visto che quando ci starete ascoltando è sicuramente senza ombra di dubbio l'anno nuovo. Ah sì, se non aggiungono dei giorni a dicembre, penso di sì. O se non andiamo in onda prima, ma non credo proprio. E quindi siamo pronti a iniziare l'anno nuovo 2017, malaticci, ma con un nuovo episodio del podcast italiano dedicato ai giochi da tavola, ovvero alla conquista del gioco. Siamo sempre noi, siamo Pietro e Claudio. E siamo pronti a introdurvi un sacco di giochi molto particolari, vero Claudio? Questa volta abbiamo Sì, proprio delle cose di sono cui sicuramente giochi usciti nel 2017. sono giochi dell'anno scorso, perché sono giochi del 2016, però sono giochi abbastanza o usciti da poco o rari a trovare in Italia, quindi parleremo di cose un po' particolari. Claudio, vuoi farci l'onore di iniziare mentre io mi documento un po' prima di parlare di quello di cui voglio parlare? Ah, ok. Ok. Allora, dato che hai detto 2016, uno dei due di cui devo parlare del 2016, l'altro è un po' più vecchiotto, quindi parliamo prima quello dell'anno che ormai ci lasciamo alle spalle. E tanto per cambiare, è sempre un gioco del nostro autore preferito che è comparso più spesso e volentieri nel programma sotto forma di citazioni o camei, magari, ma non in forma fisica, stiamo parlando di un gioco di Bruno Catala. Il gioco del 2016 si chiama Kanagawa ed è un gioco sulla pittura giapponese che riprende il grande maestro Hokusai. Per chi non sapesse che il grande maestro Hokusai è il famoso pittore giapponese artista dell'onda di Kanagawa, che è il suo dipinto più famoso. E infatti il gioco prende il nome da quel dipinto, che è Kanagawa. Il gioco quindi è ambientato a cavallo del periodo del 1800 giapponese, però questo ne vedremo ben poco perché è un gioco sulla pittura principalmente, non sulla storia. E praticamente il maestro Hokusai sta mettendo alla prova i suoi allievi, ogni giocatore quindi sarà un allievo del maestro. E dovrà riuscire nell'arte, in quest'arte, nella disciplina, a essere il più ispirato degli altri e riuscire a conquistare le lodi del maestro. Dunque, è un gioco del genere filler da 2-4 giocatori, in media dovrebbe durare 20-30 minuti, ed è veramente semplice. Il gioco contiene delle bellissime pezzi di legno che rappresentano dei vasetti con dentro un pennello e anche il maestro sotto figura di omino di legno con il cappello. Oltre a questo abbiamo una plancia in stile molto giapponese dove piazzeremo le carte nella prima fase di gioco, le plance iniziali di ogni giocatore che rappresentano praticamente il punto in cui stanno dipingendo, quindi la tela, e i soggetti che sono le carte, che possono essere sia usati come pezzo aggiuntivo del dipinto oppure come nuovi colori o abilità da aggiungere a, diciamo, al nostro tavolo. Quindi ogni giocatore all'inizio partita riceve casualmente una plancia da giocatore, che si differenzia semplicemente solo dal fatto che ogni giocatore avrà già un pezzo di dipinto diverso dagli altri già preparato e un colore che gli altri non hanno, quindi c'è un giocatore che avrà il colore rosso, quello che avrà il colore blu, quello che avrà il colore verde e così via. Il turno funziona così: nella plancia, che è una plancia 4x4, noi, anzi no, 4 3x4, 4x3, sì, sono 3 turni. A seconda del numero di giocatori, noi piazziamo una carta, quindi se siamo in 3, piazziamo 3 carte nella prima colonna. In ogni riga uno degli step ha il simbolo coperto, quindi vuol dire che una delle carte non sarà rivelata, sarà coperta. Questa qui è la fase di studio, cioè i nostri artisti stanno studiando per trovare ispirazione. Quando sono state rivelate le carte, partendo dal primo giocatore, il giocatore di turno e poi quelli dopo possono decidere di prendere una carta della colonna, quindi il primo turno solo una ne prendono. Se nessuno prende le carte, si prosegue e si aggiungono altre tre carte nella colonna sotto. E quindi adesso la colonna che andremo a prendere conterrà due carte. Mentre se un giocatore avrà preso una carta o anche due nella seconda fase, non potrà più prendere fino alla fine, fino al prossimo turno. Se nessuno prende, o comunque qualcuno ancora non ha preso, e arriviamo alla terza fase di studio, si riempirà l'ultima colonna e tutti i giocatori che ancora non hanno preso saranno obbligati a prendere una fila di tre carte, che andranno a comporre la nostra mano. Le carte, come già detto, rappresentano dei soggetti o delle abilità, perché sono divise da un lato a sinistra con un potere che può essere un colore o un pennello aggiuntivo o punti vittoria, e nel lato a destra una figura che si chiederà quali colori servono per dipingerla e una stagione in alto a destra. Noi dunque adesso, all'inizio partendo sempre noi dall'iniziativa, giocheremo queste carte. Le potremo giocare a faccia in giù per aggiungerle come colori o abilità, oppure a faccia in su per dipingerle, ma questo solo se noi abbiamo i colori adeguati e abbastanza pennelli per dipingerli. E qui arriva la fase in cui noi possiamo piazzare i pennelli. Di partenza ne abbiamo due. Possiamo piazzarli su tutti i colori che abbiamo disponibili sotto. Tuttavia, se per esempio un dipinto chiede due colori verdi e noi ne abbiamo solo uno, non possiamo completarlo. Se ne abbiamo due, ma sono molto distanti uno dall'altro, se abbiamo ancora un pennello libero possiamo piazzarlo direttamente nella parte in fondo, ma se entrambi i pennelli sono stati piazzati molto lontani, questi potranno fare solo un passo per turno in avanti tra un colore e l'altro, quindi bisogna stare attenti anche a questa decisione. Fatto questo, si prosegue al prossimo turno. Il gioco può finire in due modi, o se finiscono le tessere soggetto, oppure se un giocatore ha creato un dipinto con 11 figure. Le stagioni a cosa servono? Se io ho creato un dipinto che ha di fila la stessa stagione, faccio molti più punti a fine partita. Quindi se ho un dipinto che rappresenta l'estate continuamente, è un dipinto meglio riuscito degli altri, quindi mi farà fare più punti. Il gioco è tutto qui. La componentistica è molto bella, la meccanica è molto interessante. Gioco filler, probabilmente durerà 20 minuti. Questo ancora non ne sono certo perché ancora non ho avuto modo di provarlo, ma sono sicuro che è un bel gioco. E tutto qui. Tra l'altro, ho visto che l'edizione italiana è già annunciata. Uplay ha già comprato i diritti per la pubblicazione. Ancora non ha annunciato quando uscirà, ma quindi uscirà anche in italiano. Ok, ci metterà molto però, perché di solito Uplay Probabilmente diciamo che sì. uscirà per il Play ad aprile, quindi Ma ancora. forse anche durante l'estate. Ma più o Vabbè, adesso meno vedremo. col grande libro della follia i tempi più o meno furono quelli ed è sempre un gioco della Yello, quindi diciamo che come dicevi tu prima, Kanagawa è la famosa stampa con l'onda. Non potevano metterla come copertina perché praticamente è la copertina di Zuro of the Seas, quindi c'è un cervo invece. Cioè non Perché potevano. il cervo è una delle, penso sia, se non ricordo male, sia una delle carte che puoi creare nel gioco. Una Cioè, delle parti economiche. non è che non potevano, è che c'è già un gioco da tavola che ha una copertina quasi uguale, quindi. No, in Vabbè. realtà non ci assomiglia tanto a Zero of the Seas, me lo ricordavo un po' più simile. Invece, dai, ricorda, ma non è proprio l'onda uguale, uguale. Vabbè. Per Kanagawa, appunto, è un gioco della Yello, che costa sulla trentina di euro, da 2 a 4 giocatori, e presto uscirà anche l'edizione italiana. Il presto dovrebbe rimanere più o meno quello, e essendo di Uplay Edizioni dovrebbe essere facile da trovare nei negozi del settore. Già il fatto che è di Bruno Catala e che è uscito a Essen, quindi a novembre, e già ha un'edizione italiana vuol dire che è un gioco che ne vale la pena comunque che. Insomma, su cui puntano gli editori. È un buon Comunque, filler, sì, di puro. se non chiedo a te, il gioco non ha molta lingua dentro. Non dipende dalla lingua, sono solo simboli. Se Allora, tu sai il regolamento, puoi avere una copia di qualunque lingua che non cambia nulla. quindi se il regolamento non è molto problematico, il gioco si può prendere anche in inglese, che per adesso Sì, sì, sì, è sì, l'unica sì. versione esistente, quella inglese, ancora per un po'. Ok. Invece io parlerò di un gioco che ho provato casualmente perché è stato un regalo di Natale di una parente e altrimenti difficilmente penso sarei riuscito a provare questo gioco. E il gioco è Jim Henson's Labyrinth, ovvero il gioco da tavolo del film Labyrinth. Ecco, io quello l'ho visto in un negozio. Se non fosse stato per il prezzo, forse l'avrei anch'io. Tra l'altro la cosa particolare è che a parte la casa editrice, la casa madre di questo gioco che è la River Horse di Alessio Cavatore, è edito solo in Italia per adesso, quindi grazie alla Da Vinci, alla DV Games, alla Da Vinci Giochi, e quindi praticamente noi italiani siamo tra i pochi nel mondo che possono trovare questo gioco nei negozi. Insieme al gioco di Zagor, giustamente, perché è prodotto italiano, doc, quello. Allora, E sì. facciamo una presentazione al gioco. Come dicevamo, il gioco è della River Horse, la casa di Alessio Cavatore, che è famoso per essere stato l'unico, almeno credo, da quello che so dovrebbe essere l'unico italiano 100%, che è, quindi non italo-americano, italo-inglese o quello che è, che ha lavorato per anni alla Games Workshop come scrittore di regolamenti. Quindi è restato nel mondo delle miniature, nel mondo di Warhammer, ad alti livelli per molti anni. E quando è uscito dalla Games Workshop ha iniziato a scrivere regolamenti per varie case minori inglesi, come ad esempio per la Mantic Games, e adesso non mi ricordo, mi sembra forse anche per la Prodos ha messo le mani, non mi ricordo. E comunque, dopodiché ha fondato la sua casa editrice, la River Horse, con cui ha fatto il gioco di Terminator, e vari scacchistici come Shuro, Loka e Turanga. E anche adesso Jim Henson Labyrinth, ovvero il gioco del film di Jim Henson, il creatore dei Muppet, dove l'antagonista del film è David Bowie e la colonna sonora è scritta e cantata appunto da David Bowie. Il film dell'86, per chi non lo conoscesse, è un film fantasy in cui questa ragazza Sara viene intrappolata in questa città labirinto da Jared, il cattivo che è David Bowie, e deve riuscire a trovare l'uscita per tornare a casa. E in questo labirinto troverà degli amici che tenteranno di aiutarla nella sua missione per fuggire dal palazzo, dal labirinto, dal palazzo. E questi amici sono principalmente pupazzi o comunque attori travestiti con costumi molto particolari, come è tipico di Jim Henson. Andiamo a parlare del gioco adesso. Allora, il gioco lo possiamo definire, per chi conoscesse Talisman, un talisman molto soft, ancora più family. Praticamente, il gioco è a tempo, al contrario di Talisman, che può durare ore. Questo gioco ha una durata di 30-45 minuti, perché abbiamo 13 turni, 13 giri del tavolo dei giocatori per finire la partita. A quel punto, se non siamo riusciti a completare la condizione di vittoria di questo cooperativo, perché non ho detto appunto che è un cooperativo, la partita è persa. Praticamente in questi 13 turni lo scopo dei giocatori è macinare il mazzo degli eventi per trovare l'entrata alla città dei Goblin. Allora, il tabellone rappresenta il palazzo centrale di Jared con la città dei Goblin, più una serie di spazi vuoti attorno ad esso, che è dove i nostri personaggi gireranno per far comparire gli eventi. Durante il proprio turno, i personaggi tirano il loro dado movimento, che varia a seconda del personaggio. Il gioco ha dadi che vanno dal dado da 4 al dado da 20, quindi il classico set di dadi da Dungeons & Dragons, 4, 6, 8, 10, 12, 20. E possono scegliere, tuttavia, quando si muovono, se vogliono muoversi di meno, di tirare un dado della taglia più piccola di quello che tirerebbero normalmente. Quindi, ad esempio, un personaggio che si muove con D6 può decidere volontariamente di tirare il D4. A quel punto, quando si muovono, se finiscono in uno spazio con un evento che è rimasto lì dai turni precedenti, devono provare a risolvere quello, altrimenti pescano dal mazzo. In questo mazzo degli eventi, che sono tutte scene particolari del film o incontri con creature del film, verso la fine, nelle ultime 12 carte, c'è la carta per l'entrata della città dei Goblin. Quindi lo scopo del gioco è macinare il più possibile questo mazzo per raggiungere l'entrata e poter iniziare lo scontro finale con Jared. Quindi sostanzialmente i giocatori devono far uscire più eventi possibile. Come altre meccaniche alternative, cioè più che alternative, come altre meccaniche, oltre a questa cosa del dover fare uscire eventi per trovare l'entrata alla città, abbiamo il fatto che i giocatori possono unirsi in gruppo. E quando i giocatori formano un gruppo perché le loro miniature si sono incontrate, possono continuare a muoversi insieme. Questo farà uscire. Questo di difetto ha che il gruppo deve tirare il dado movimento più basso tra i suoi componenti, quindi si muovono come il più lento. Tuttavia, quando devono risolvere una prova, tutti quanti tirano il loro dado per la prova, quindi ci sono più probabilità di vincere. Oltre a questo, l'altra meccanica particolare del gioco è la puzza. Ok, cioè, sento del rumore, rumoreggiare. Scusatemi. Niente. Dicevo, praticamente attorno al tabellone ci sono due spazi speciali che sono le segrete e la gola dell'Eterno Fetore. Le segrete semplicemente è dove finiscono i personaggi quando hanno finito la vita ed è dove i personaggi possono riposare quando devono recuperare vita. Nelle segrete ci si può atterrare perdendo un turno o addormentandosi e poi tentare di curarsi. Mentre nella gola dell'Eterno Fetore bisognerà fare una prova che se fallita ci darà un segnalino puzza. Quando un giocatore ha il segnalino puzza e vuole muoversi in gruppo con gli altri, dovrà tirare un D6 e se fallisce la prova gli altri lo lasciano indietro. Quindi una volta ottenuto questo segnalino puzza, che se non sbaglio non si può togliere tra l'altro, è più difficile mantenere il gruppo unito per i movimenti. Fatto questo, una volta raggiunta la città dei Goblin, è possibile iniziare ad affrontare i boss. Ci sono vari boss per arrivare a Jared. Sconfitti questi boss, che semplicemente richiedono una prova, le prove in questo gioco sono basate su tre statistiche, e ogni personaggio ha il suo dado per la statistica, e semplicemente bisogna eguagliare o superare il tiro fatto dalla creatura avversaria, che viene fatto da un altro giocatore normalmente. Bisognerà affrontare la prova finale, che è recitare, leggere una carta con una battuta del gioco, una canzone, e recitarla. È molto difficile perché è una battuta veramente lunga. Fatto questo, entro i 13 turni, la partita è vinta. Allora, cos'altro da dire? Il gioco si può giocare a un giocatore, qui un giocatore può giocare da solo muovendo tutti i personaggi, oppure si può giocare anche in 5. In 5, oltre ai 4 personaggi di base del gioco, ovvero Sara, Sir Didymus, Dudo e Google, o Gogol, come si chiama, un giocatore userà Jared. Questa cosa è forzatissima, perché il giocatore che usa Jared semplicemente tira i dadi avversi nelle prove, non fa nient'altro. Quindi è semplicemente un giocatore che tira i dadi e quando gli altri pescano gli eventi, lui ne pesca due e sceglie quale giocatore deve affrontare. Quindi diciamo Non gioca, cioè semplicemente muove la meccanica negativa, la muove un altro giocatore. Sì, esattamente. Praticamente è uno spettatore. Tutto qui. Infatti, è il gioco a 5 giocatori è forzatissimo. Non c'è altro da aggiungere. I componenti del gioco sono molto buoni. Le miniature sono veramente carine e di un buon materiale. Sono di un PVC molto duro e molto adatto a essere dipinto. E la ruota, l'orologio dei turni è anche molto bello come è stato realizzato. Le schede dei personaggi sono un po' sottiline di un cartone non bellissimo invece. E per il resto non mi sembra ci sia altro da dire. Non mi viene in mente altro, almeno questo. Il gioco quindi è sostanzialmente è un talisman semplificato all'osso, però con una durata accettabile. Secondo me questo gioco è adatto soltanto ai fan del film, perché se sei un fan del film sicuramente ti piacerà tantissimo perché ritrovi tutte le scene del film e quell'ambientazione che ti piace tanto. Altrimenti ti ritrovi un gioco in cui semplicemente tiri un dado per muoverti e poi tiri un dado per superare una prova, tutto qui per tre quarti d'ora. Vabbè, è un po' tipo dungeon questo, dai. Sì, però Dungeon questo ognuno fa un po' la sua avventura e va bene a chi va meglio in questo Sì, se vince gioco. chi muore per ultimo, di solito. Sì, dai, è un po' diverso. E come dicevamo, sto gioco è edito in Italia dalla Da Vinci Games, quindi molto facile trovare nei negozi perché la Da Vinci ha una distribuzione ottimale. Spesso i giochi Da Vinci a volte si trovano persino nei supermercati di varia e ha un prezzo di 50 euro. Da. Ok, penso non c'è altro da aggiungere. Tra l'altro, io ho appena comprato un gioco di cavatore, spero che sia all'altezza, perché fino adesso i giochi che ho provato di cavatore non mi hanno entusiasmato, perché si vede che ha lavorato alla Games Workshop per molti anni, richiamano tutti molto a Warhammer a tirare manciate di dadi e basta. Non ti preoccupare. Magari nella prossima trasmissione parlerò di Locke, così diamo una bella idea dei suoi giochi. Ok, no, niente, non ho niente contro cavatori. Va Va bene. bene. Avanti, Claudio, puoi proseguire. Allora, questo non è un gioco del 2016 e del 2013, è un gioco polacco, quindi i due autori hanno dei nomi che non saprei pronunciare, ma ci posso provare, Marek Midel e Piotr Stankiewicz. Piotr. Pubblicato dalle nostre parti, a quanto pare, dalla Grey Fox Games, che non so minimamente chi sia, però va bene. Nella mia scatola c'è la Grey Fox Games, quindi direi che sono loro. È un gioco da due giocatori e basta, e si chiama Sette Ronin. Riprende il classico tema alla Sette Samurai, però è un gioco tattico da due, dove invece che dei samurai abbiamo dei Ronin inventati, però ovviamente con dei nomi molto classici o ripresi comunque da personaggi storici giapponesi. È un gioco veramente strano e a mio avviso è anche un gioco molto equilibrato. Allora, Sette Ronin riprende praticamente la difesa di un villaggio dall'assalto di un gruppo di ninja. E questo villaggio è difeso da questi Sette Ronin. Ricorda un po' i sette samurai, però ho deviato un po', visto che i ninja non c'entravano Hanno niente. cambiato sia i banditi che i samurai in due cose non molto differenti. Quindi, uno dei due giocatori userà i ninja che assaliranno il villaggio, l'altro giocatore utilizzerà i Ronin. Il genere di gioco è un area control, dove le aree che andremo a controllare attiveranno degli effetti speciali, però è anche un gioco di azioni simultanee, perché entrambi i giocatori inizieranno con uno schermo a vicenda fatto di bambù, così che coprirà le azioni che selezionano all'inizio turno, che poi verranno rivelate e scopriremo cosa succederà nella plancia di gioco. Quindi abbiamo una plancia centrale, due plance esterne che verranno date ai due giocatori che terranno nascoste dietro dove programmeranno le azioni. Il giocatore che userà i ninja avrà 40 segnalini ninja che sono dei piccoli shuriken neri. Questo potrebbe essere fastidioso per chi fa fatica a maneggiare certe cose e anche perché potrebbe essere facile perderli perché sono un po' piccoline, ma bisogna farci l'abitudine, però io non ho trovato difficoltà in questo. Il gioco arriva con 50 di questi segnalini, però il giocatore con i ninja ne avrà 40 a disposizione. Gli altri 10 potrà utilizzarli solo se attiverà certi poteri durante la partita. Quindi lui ne avrà 40 nella sua riserva generale e 10 nella riserva generale, viene chiamata, che è quella esterna, che sono quelli che non sono contati all'interno del gioco finché non vengono prelevati. Mentre il giocatore che ha i Ronin semplicemente avrà a disposizione le sette tessere Ronin che rappresentano la vitalità, quindi quanti punti ferita ogni Ronin, e i loro poteri, perché ogni Ronin è differente dall'altro, ha un tot di vita e un potere completamente diverso. Oltre alle tessere ha i token dei Ronin che può posizionare nella sua mappa personale, che poi dopo andrà a rivelarsi quella centrale. Allora, il gioco, oltre alle tessere ninja, può avere un'altra problematica. Quando tu leggi il regolamento, cioè, è pieno zeppo di. Sì, ho cambiato termine. È pieno zeppo di regole. Cioè, ah, i Ronin hanno questi sette poteri qui che fanno questo, quest'altro, quest'altro. Vai a vedere nella pagina qua perché questo potrebbe attivarsi insieme a questo. Però alla fine dei conti, i Ronin non sono così complessi. Ma quando andiamo a vedere la parte dei ninja, è una cosa assurda perché I Ronin hanno un potere che si possono attivare se completano certe condizioni, mentre i ninja hanno un potere che si può attivare se conquistano una certa area. Quindi l'area control si basa principalmente sui ninja, mentre i Ronin ce l'hanno già il potere. Solo che la plancia di gioco ha 11 aree diverse, e ognuna di queste ha dei poteri molto lunghi, e quindi tu devi ricordarti, ah, se controllo quest'area qui, posso prendere questi della riserva, sostituirli con questi qua, se prendo quest'area qua, posso spostare questo qua, qua, qua, qua. Quando leggi il regolamento dici ok, vado avanti. Quando hai finito di leggere il regolamento non ti ricorderai più nulla. Tuttavia lo schermo funge da quick reference, però ha un difetto. È un quick reference parziale, cioè ti dice, per esempio, se tu conquisti quest'area, prendi due ninja, però non ti dice da dove devi prendere. Non né dal supporto generale né dalla riserva. Devi andare a rivederti sul libretto dove devi prenderli. Questo vale per tutti i poteri dei ninja. Quindi, il giocatore dei Ronin non ha problemi per il regolamento. Il giocatore dei ninja è consigliato che si tenga il libretto. Perché tutti i suoi poteri sono descritti parzialmente. Va bene, a parte questa piccola cosa, andiamo avanti con la spiegazione. È la difesa di un villaggio che dura 8 giorni, quindi abbiamo 8 turni di gioco. I ninja e i Ronin hanno diverse condizioni di vittoria per vincere. Allora, come già detto, la plancia del villaggio sono 11 zone, di cui l'undicesima, che è il centro della plancia, non conta come zona da conquistare per i ninja. È una zona speciale dove si può fare un certo effetto particolare. Ed è il campo. I ninja per vincere devono o a fine turno possedere 5 territori, escludendo quello centrale, oppure devono aver eliminato tutti i Ronin del giocatore avversario. E basta. Sì, queste sono le condizioni di vittoria del ninja. Mentre i Ronin possono vincere se il giocatore avversario non ha più ninja sulla plancia e nella sua riserva da schierare. Oppure se i Ronin. Mi senti ancora, Pietro? Sì, ti sento. Ok. Dai, Oppure se ti i sento. Ronin Ok, adesso ti sento sono bene. sopravvissuti. Ok. Oppure i Ronin vincono se all'ottavo turno ne è rimasto ancora qualcuno in vita e i ninja non hanno conquistato 5 territori. Quindi i Ronin vincono se riescono a difendere per 8 turni o se hanno eliminato tutti i ninja. I ninja vincono se hanno eliminato tutti i Ronin o hanno conquistato 5 territori su 10, perché l'undicesimo non conta come territorio conquistabile. Allora, il turno di gioco funziona così. Ci sarà nel lato sinistra della plancia, nel lato sinistra della plancia, l'ordine dei turni. Quindi c'era lo schema dei turni da 1 a 8. Insieme al numero del turno e al segnalino che segna che turno siamo, c'è la statistica che determina quanti ninja possono arrivare e in quanti territori loro possono entrare questo turno. Facciamo un esempio: il primo turno i ninja possono invadere tre territori diversi, ma massimo ne puoi schierare uno per territorio. Quindi il giocatore di ninja prende la sua mano di ninja, non fa vedere quanti ne prende all'avversario, massimo ne può prendere tre, e li può posizionare nella sua minimappa nei territori che vuole cercare di conquistare. In contemporanea, il giocatore coi Ronin deve giocare tutti i 7 Ronin nelle zone che vuole. Però attenzione, i Ronin hanno delle restrizioni. Non possono starsene due nella stessa zona, e non possono andare nella zona centrale a meno che non sia già un ninja di base. Il primo turno non c'è per forza il ninja e quindi non possono andare nel campo di grano. Fatto questo, entrambi i giocatori tolgono i bambù che coprono le loro azioni e posizionano i ninja e i Ronin dove sono stati messi e risolviamo quello che succede. Allora, la prima cosa che si risolve nella fase di battaglia sono i poteri dei Ronin. Alcuni Ronin non hanno potere, alcuni hanno un potere che è chiamato Free Power, significa. Questo Ronin può attivare questo potere se si trova in una zona che non comprende ninja. E altri Ronin hanno il potere che invece è il potere di contestamento, cioè lo possono attivare se si trovano in una zona insieme a un ninja. Allora, i 7 Ronin hanno poteri completamente differenti. Ne abbiamo uno che ha 7 punti ferita, che sono tantissimi, e non ha potere, quindi è il tank. Abbiamo quello a cavallo che all'inizio della fase di battaglia può spostarsi subito dove vuole. Abbiamo la ninja, la Ronin, con 3 punti ferita, che però può stare nella stessa zona di un altro Ronin, lei è l'unica che può farlo. Abbiamo Musashi che si trova a inizio turno insieme a un ninja, lo può uccidere subito come azione gratuita. L'Arazzere che se non si trova nella stessa zona di un ninja può togliere un ninja dalla riserva dell'avversario e toglierlo dal gioco. Poi abbiamo il Samurai che sposta uno o due ninja che sono nella stessa zona in due zone adiacenti. Lo Yohei, il monaco, che se non si trova in una zona con un ninja può curare la ferita di un altro Ronin ma non se stesso. Allora, attivate i poteri se è possibile. Però attenzione, prima di andare avanti, specifico un'altra cosa. Nella zona centrale, il campo, i poteri dei Ronin non hanno effetto. Quindi il Ronin a cavallo non può spostarsi lì dentro. Per fare un esempio. Comunque, dicevo, finito l'utilizzo dei poteri, che si può utilizzare solo in questo momento, si risolve la battaglia con i ninja. Se un Ronin si trova in una zona con due ninja, per esempio, prende quei due ninja, li uccide e li mette nelle sue ferite. Quando arriva a completare, cioè, per esempio, se un Ronin ha tre ferite e ha tre ninja sopra, quel Ronin è morto per tutta la partita. Fatta Ah, ok. questa fase, risolta questa fase qui, si guarda in che zone sono rimasti dei ninja, e ovviamente sono zone che non comprendono Ronin per forza. Perché o sono morti o perché non c'erano. Quelle lì sono le zone che i ninja hanno conquistato. E adesso possono attivare il potere di ognuna di quelle zone. Che sono cose a volte fortissime, a volte un po' particolari, che possono essere utilizzate durante la partita in certi modi. Vi faccio un esempio: ci sono due campi di grano tra queste 10 zone. Se i ninja hanno entrambi i campi di grano, quei due campi non valgono come due zone, valgono come tre zone che hanno conquistato. Ah, punto Oppure vittoria in più. c'è, esatto, oppure c'è la taverna che dice la taverna copia il potere di un'altra zona che hai conquistato. Quindi se tu hai due campi e usi la taverna per copiare il potere, hai quattro territori. Ok? Sì. Anzi, in realtà ne avresti cinque, perché anche la taverna è un territorio. Quindi vinceresti No, la partita. adesso Allora, no, non la taverna so. vale come un territorio. Sì. Ah, però hai ragione, copia il potere. Sì, in realtà non Diciamo che funziona. puoi usare la taverna per fare come se fosse un campo se ti manca Come uno dei fosse il due campi. secondo Sì, campo, esatto. esatto. Sembra semenza come il secondo campo, però sì. La torre di guardia, che è molto pesante, se i ninja l'hanno conquistata, la torre di guardia è adiacente a uno dei campi e alla taverna. Se ci sono dei Ronin nelle due zone adiacenti, tutti quei Ronin si beccano una ferita. Poi Ah. c'è quella che ti fa rigenerare dal riserva generale dei ninja che andranno nella tua riserva di inizio turno. C'è la zona che può annullare il potere di un Ronin per il prossimo turno. C'è quella che ti fa avvelenare un Ronin a scelta, cioè gli fai subito un danno. E così via. Mentre la zona centrale funziona così. Se c'è almeno un ninja, all'inizio del prossimo turno, avevo già detto che c'era una restrizione all'inizio turno per i ninja, che possono mettere un tot di ninja in un tot di territori. Per ogni ninja che è in quella zona, tu puoi mettere un ninja in più di quanti ne potresti mettere normalmente. Quindi se io in questo turno posso mettere massimo 4 ninja in due territori, e io lì ho due ninja, in realtà in uno ne posso mettere anche 6. Ok? Ok. Però il campo ha un difetto. Ho già detto che nel campo i Ronin ci possono entrare solo se sono già presenti dei ninja all'inizio turno. Se nel prossimo turno un qualunque Ronin va nel campo, i ninja che sono lì dentro vengono uccisi automaticamente e non fanno ferita a quel Ronin. Perché non si difendono. Tutto qui. Finché non si attivano le condizioni di vittoria, il gioco va avanti. Bene o male, prima o poi qualcuno vince, perché se finiscono gli 8 turni vincono i Ronin che sono ancora vivi. Se Qui da durata 30 minuti, non sembra neanche durare molto. no, in realtà anche 20. Semplicemente devi imparare bene i poteri, e soprattutto i poteri che cercano di fare i ninja. Ma tu lo definiresti quasi scacchistico? Non è così semplice. Cioè, no, in realtà no, perché non è così facile capire dove andranno i ninja. Però non c'è della Lea, quindi è tutto Io strategico. l'ho testato, e ho notato che i ninja, se non stanno attenti, finiscono troppo presto la riserva e dopo non hanno più modo di schierare. E i Ronin devono gestirsi molto bene i poteri free, cioè quelli che non contestano con i ninja, perché sennò iniziano a morire uno dietro l'altro. E la partita che ho testato è finita che l'ultimo turno i ninja non potevano più schierare niente perché avevano finito la riserva e avevano rimasto delle truppe in campo. E i Ronin avevano rimasto solamente il monaco che cura con uno di vita, che però sapeva già che l'altro avversario non aveva più ninja da schierare, e bastava che si schierasse in una zona senza ninja per sopravvivere. E i ninja non avevano 5 territori, non potevano spostarsi, quindi. Ma secondo te è equilibrato a livello di fazioni? Molto equilibrato perché ti dico, i ninja avrebbero vinto se avessero fatto un ultimo danno al Monaco. E il Monaco ha vinto perché ha resistito, perché i ninja non avevano più unità da schierare. Ma proprio l'ultimo turno. Adesso questo si basa su una partita, però sì. Va bene. Vedo che il gioco non ha meccaniche, non ha, è indipendente dalla lingua, quindi se uno co Sì, conosce il regolamento. l'unico problema è impararsi tutti quei poteri. E per i ninja è dura, i Ronin è una sciocchezza. Se avere un regolamento bello, bello peso. Cioè, più che il regolamento, proprio le cose secondarie come le abilità. Tra il gioco costa 30 euro, che non è neanche, non è niente di esagerato, è accettabile. È un due giocatori, uscito nel 2013, solo in inglese. Come diceva prima Claudio, è della Badger's Nest o Grey Fox Games, cioè i distributori sono i due, uno è l'autore. La Badger's Nest, penso sia l'autore e poi distribuito dalla Grey Fox. E quindi non sono distributori molto facili da trovare in Italia. Cioè, quindi internet, ragazzi, se vi interessa questo Ok. gioco. Bene, faccio io l'ultimo gioco e poi vi prometto che chiudiamo. Allora, un secondo che il raffreddore mi chiama. Ok. Anche questo, come Labyrinth, è un gioco che se non fosse stato per le feste natalizie non avrei mai provato in vita mia, probabilmente. Questo qui, se vuoi dire, il gioco di prima era il regalo di Natale alla cugina della mia ragazza. Questo qui è il regalo di Natale al fratello della mia ragazza, quindi. Ed è il gioco di Bloodborne, il videogioco della PS4. Allora, Bloodborne. Il videogioco parla di questo medioevo, questo universo gotico in cui la chiesa, questa organizzazione, possiede questo panacea che si chiama Sangue Smunto, che è in grado di curare qualsiasi malattia, qualsiasi ferita, ma a certe volte ha effetti collaterali e chi beve questo sangue può diventare un'aberrazione. E quindi nella stessa città in cui i pellegrini vanno a farsi curare con questa panacea, di notte sciamano creature orribili e mostruose che non vedono l'ora di fare a pezzi gli esseri umani. Ne avevo sentito parlare un po' di questo gioco. Poi, tra l'altro, c'è una magnifica carta di un maiale mostruoso. Sì, l'ho affrontato il maiale. Dicevo, sì, quindi c'è questa setta, c'è questa organizzazione, diciamo, di cacciatori che sono praticamente coloro che uccidono queste aberrazioni per proteggere i pellegrini. E il protagonista del videogioco, appunto, è un cacciatore. E in questo gioco, noi, tutti i giocatori, il gioco è da 2 a 5, interpreteranno un cacciatore che cerca di fare più punti possibile rispetto agli altri. Il gioco è un semi cooperativo perché per ottenere certe ricompense bisognerà che i giocatori collaborino minimamente, però comunque alla fine vince chi fa più punti, quindi. E in più c'è il fuoco amico, quindi è possibile anche fare danni agli altri e ucciderli. Allora, innanzitutto il gioco è di Culmini Ornot e l'autore del gioco è uno degli autori di American più amati, ovvero Lang, autore di Caos nel Vecchio Mondo e Arcadia Quest, per dire. Capito, Claudio? Sì. Del tuo amato Arcadia Quest. Eric Lang, non è Eric Lang, scusa. Io ho detto Lang, sì, è lui. Sì. È anche l'autore di Bloodborne. Ed è uno degli autori di American più amati, anche lui è canadese, sì. E effettivamente diciamo che le meccaniche del gioco sono veramente intriganti. Quando mi hanno proposto di giocare a questo gioco, io ero tipo: no, sarà una porcheria basato su un videogioco, cioè sarà una schifezza. E invece devo dire che le meccaniche sono veramente interessanti. In una cosuccia, cioè in una cosa secondaria, ho rivisto anche Caos nel Vecchio Mondo durante la partita. Prima di scoprire che il gioco era dello stesso autore, e ho detto: ah, questa cosa è uguale a Caos del Vecchio Mondo, poi l'autore è lo stesso. Allora, cosa dobbiamo fare nel gioco? All'inizio partita viene pescato, il gioco è un gioco di carte praticamente. La maggior parte dei componenti sono carte. In più i giocatori hanno una plancia per tenere il conto dei trofei che hanno accumulato, del sangue che hanno prelevato ai mostri. Una ruota per tenere conto dei punti ferita e tantissimi segnalini sangue smunto. A inizio partita viene pescato un boss che sarà il boss di questa partita e lui avrà un'abilità che influenza tutti i mostri che entrano in gioco, quindi un po' come i grandi antichi dei vari giochi di Cthulhu. Dopodiché i giocatori dovranno macinare il mazzo dei mostri fino ad arrivare a questo boss finale. I giocatori partono tutti con lo stesso equipaggiamento, poi potranno potenziarsi. Decidendo di salvare la partita. Adesso vediamo come. Praticamente, all'inizio partita i giocatori hanno tutti un'arma da corpo a corpo, un'arma da sparo, quindi hanno la pistola, hanno l'ascia e la metamorfosi, che è una carta speciale, e il sogno del cacciatore, che è un'altra carta speciale. Poi mi sembra ci sia anche un'altra arma da corpo a corpo, ma non ricordo. Comunque hanno delle armi e queste due carte speciali. Che le armi durante la partita potranno essere scartate perché c'è un massimo di carte in mano, o comunque nel mazzo degli scarti. Tra il mazzo e la mano ci possono essere 7 carte. Ma la metamorfosi e il sogno del cacciatore non possono essere scartate. Allora, praticamente, ogni turno uscirà un nuovo mostro da affrontare. I mostri sono di due tipi: ci sono i boss e i mostri normali. La differenza è che i mostri normali dopo un giro di giocatori scappano, mentre i boss rimangono lì. Ed è qui che viene la meccanica del collaborare. Praticamente i mostri sono di tre tipologie. Quando noi li uccidiamo ci danno dei trofei a seconda della loro tipologia. E i trofei vengono dati a tutti coloro che hanno colpito il mostro nel turno in cui è morto. E questo appunto ricorda la meccanica dei razziatori di Caso del Vecchio Mondo. Ed è qui che i giocatori devono cooperare, perché mentre il boss sta lì finché non muore, i mostri normali dopo un giro se ne vanno. Quindi se i giocatori non massimizzano il danno, non riescono ad ucciderlo, perché comunque uno non ce l'ha fatto io tutta la vita da solo, e nessuno becca i trofei. La cooperazione viene da questo, quindi, dal cercare di massimizzare il danno per far fuori i mostri prima che scappi e prendersi tutti i trofei, tutti quelli che hanno partecipato all'uccisione. Il mostro, oltre ad avere i trofei, la sua tipologia che dà, può avere anche un'abilità e in più ha il dado che tira. Ci sono tre tipi di dadi mostro, ognuno a seconda della sua forza, cioè il verde, il giallo e il rosso. Più il mostro è forte, più danni farà a tutti i giocatori. Il mostro colpisce tutti contemporaneamente. E la cosa particolare è che il mostro attacca prima dei giocatori. Quindi il mostro ci fa i danni e magari moriamo. E poi tocca ai giocatori. A quel punto i giocatori che hanno scelto una carta dalla mano la rivelano e partendo dal primo giocatore si risolvono i danni. L'arma fa il suo danno, se è un'arma, quindi magari fa uno. Quindi prendiamo un punto vita dal mostro, un segnalino sangue smunto, e ce lo mettiamo nella nostra riserva di segnalini. Nella nostra scheda ci sono due riserve, cioè quella temporanea e la banca, diciamo, del sangue. Quando il mostro viene colpito, e il sangue va nella riserva temporanea. Per poterlo mettere nella banca e salvarlo per tutta la partita, avremo bisogno di un'azione successiva. Quindi tutti i giocatori fanno il loro danno e dopodiché si va avanti così. Se il mostro era normale scappa, se è un boss si continua. E le altre due azioni che possiamo fare, oltre a usare le armi, che hanno anche effetti particolari, ad esempio c'è la pistola che ignorando l'ordine del turno ha l'iniziativa e colpisce per primo di chi ha usato le altre armi, oppure c'è il lanciafiamme che colpisce anche i giocatori che hanno usato un'arma da corpo a corpo in questo turno oltre al mostro, e i giocatori possono utilizzare invece di un'arma la metamorfosi o il sogno del cacciatore. Allora, la metamorfosi serve per prendere tempo, sostanzialmente è il vedo del poker. Quando abbiamo giocato la metamorfosi, Noi, quando tocca a noi rivelare la carta, la riveliamo, vediamo cosa hanno giocato gli altri e solo dopo scegliamo che arma utilizzare. Quindi la metamorfosi è prendere tempo per poi vedere cosa hanno scelto gli altri e poi scegliere che arma mettere. L'unica cosa, dopo la metamorfosi si può solo mettere un'arma, non si può usare il sogno del cacciatore. E l'altra carta, che è la cosa fondamentale del gioco, è il sogno del cacciatore. Allora, innanzitutto, il sogno del cacciatore sarebbe salvare la partita, diciamo, se fosse un videogioco. E rappresenta comunque la base del cacciatore nel videogioco, in cui lui si fa i potenziamenti e appunto salva la partita. Quando utilizziamo questa carta, il nostro personaggio sposta tutto il sangue che ha raccolto dai mostri nella sua banca e lo salva. E quello lì non lo potrà più perdere. Perché altrimenti, quando il personaggio muore, perde tutto il sangue che non era stato salvato ed era nella riserva temporanea. In più, riprende in mano tutte le carte della sua pila degli scarti, quindi si refresha anche la mano, e aggiunge un potenziamento il display dei potenziamenti. I potenziamenti sono nuove armi o cose aggiuntive, tipo curative, che si trovano in un display che è visibile a tutti i giocatori. E a cui ci si può attingere ogni volta che si salva con il sogno del cacciatore. Se il giocatore ha più di 7 carte, deve eliminarne una dal suo mazzo per poter aggiungere una nuova carta. E il gioco è semplicemente questo, quindi: un affrontare queste ondate di mostri, cercando di salvare la partita in modo equilibrato per poter salvare i propri progressi. E a fine partita i punti sono dati dal sangue immagazzinato nella banca, ma più che altro il moltiplicatore più grosso è dato dai trofei. Come dicevamo, quando un mostro viene ucciso dà dei trofei a chi ha partecipato alla sua uccisione. Questi trofei, più ne si è collezionati, più il moltiplicatore dei punti è alto, e sono tre moltiplicatori diversi per le tre tipologie di mostri. Questo è tutto per Bloodborne, questo gioco molto particolare. I dadi vengono lanciati solo dai mostri, quindi i personaggi non tirano dadi, sanno che danni fanno, lo sanno fisso. Però c'è appunto. Ah, un'altra cosa che ricorda Lang e ricorda Castle del Vecchio Mondo. Mentre in Castle del Vecchio Mondo, quando facevamo 6 col dado, il dado esplodeva e tiravamo un altro di 6 da sommare, alcune facce dei dadi, più soprattutto quelle dei dadi forti come il dado rosso, dei mostri, hanno un asterisco, ad esempio può esserci due asterisco, vuol dire, o è un più, non ricordo, comunque c'è un simbolo. Vuol dire che il dado viene lanciato ancora e si somma il nuovo risultato. Questo finché viene un numero col più, quindi un mostro può farci anche 7 danni di botta. E il proprietario del gioco, che è un giocatore di Bloodborne, ha detto che questa cosa richiama molto al gioco, perché i mostri magari fai una battaglia di 30 minuti, loro ti colpiscono una volta e muori sul colpo. Quindi forse Lang voleva simulare appunto questa imprevedibilità di Bloodborne. Per il resto, Bloodborne principalmente per ora è uscito solo in America e costa 40 euro. 40, sì, sui 40 euro col cambio in dollaro. E quindi in Italia il metodo più facile per trovarlo probabilmente è Amazon. Ok, tutto qui quello che avevo da dire. Claudio? Sì. Ok, ci sei. Non so, sinceramente, sapendo che era di un videogioco della PS4, la mia prima opinione era, sarà una porcheria. In realtà è interessante, cioè per dire, non è un capolavoro che giocherei tutti i venerdì sera in associazione, però è interessante. Lang comunque è una garanzia. È un autore di giochi è rinomato e molto bravo. Ok, direi che con questo episodio abbiamo chiuso. Siamo tornati ai quattro giochi a puntata con questo episodio, che non succedeva da un po'. E quindi siamo pronti ai saluti finali. Parliamo degli appuntamenti allora associativi. Aria Games si ritrova tutti i venerdì presso il Circolo President di Forlì in Viale Roma, zona Ronco. Tutti i venerdì sera dalle 9. Se volete segnarvi per le nostre serate associative, c'è la pagina Facebook Area Games ACSD, oppure potete presentarvi direttamente in serata. È un gioco da farvi fare, lo troviamo. E il primo prossimo venerdì, adesso qui noi siamo ancora nell'anno vecchio, il prossimo venerdì da quando registriamo sarà il 6 gennaio. Ok. Dopo il 6 gennaio, l'altro evento associativo sarà l'8 gennaio, domenica, a Mercato Saraceno presso la scuola elementare, dove avremo un'area demo per bambini, principalmente famiglie, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 più o meno. L'evento è A che gioco giochiamo, un evento storico per la nostra associazione che facciamo da anni. Se siete in zona Forlì Cesena o comunque Mercato Saraceno, vi invitiamo a fare un giro e a giocare con noi. Per il resto noi vi salutiamo, direi malaticci come siamo. Passeremo un capodanno perché qui ancora quando registriamo non è ancora finito l'anno. Passeremo un capodanno all'insegna di giochi da tavola e spero che farete anche voi, che avrete fatto anche voi altrettanto perché vi parliamo dal passato in questo momento. E buon anno a tutti, direi. Ciao ciao! Ciao!